Capitolo terzo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitare il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, novembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo terzo. Ricordi. Primo, Romagna, a Severino. Sempre un villaggio, sempre una campagna, mi ride al cuore o piange, Severino. Il paese ove, andando, ci accompagna l'azzurra vision di San Marino. Sempre mi torna al cuore il mio paese, cui regnarono guidi e malatesta, cui tenne pure il passator cortese, re della strada, re della foresta. Là nelle stoppie dove, singhiozzando, va la tacchina con l'altrui covata, presso gli stagni lustreggianti, quando lenta vi guazza l'anatra iridata. Oh, foss'io teco, e perderci nel verde, e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, gettarci l'urlo che lungi si perde dentro il meridiano ozio dell'aie. Mentre il villano pone dalle spalle gobbe la ronca e afferra la scodella, e il bue rumina nelle opache stalle la sua laboriosa lupinella. Da borghi sparsi le campane intanto si rincorron coi loro gridi argentini, chiamano al rezzo, alla quiete, al santo desco fiorito d'occhi di bambini. Già m'accogliea in quelle ore bruciate sotto ombrello di trine una mimosa che fioria la mia casa al dì d'estate co suoi pennacchi di color di rosa. Essa abbracciava per lo sgretolato muro un folto rosaio a un gelsomino. Guardava il tutto, un pioppo alto e slanciato, chiassoso a giorni come un birichino. Era il mio nido, dove, immobilmente, io galoppava con Guidon Selvaggio e con Astolfo, o mi vedea presente l'imperatore nell'eremitaggio. E mentre aereo mi poneva in via con l'ippogrifo pel sognato alone, o risonava nella stanza mia muta il dettare di Napoleone, udia tra i fieni allora allor falciati de grilli il verso che perpetuo trema, udiva dalle rane dei fossati un lungo interminabile poema. E lunghi e interminati erano quelli ch'io meditai, mirabili a sognare, stormir di frondi, cinguettio d'uccelli, risa di donne, strepito di mare. Ma da quel nido, rondini tardive, tutti, tutti migrammo un giorno nero. Io, la mia patria ora è dove si vive, gli altri sono poco lungi in cimitero. Così più non verrò per la calura tra quei tuoi polverosi biancospini, ch'io non ritrovi nella mia verzura del cuculo ozioso i piccolini. Romagna solatia, dolce paese, cui regnarono guidi e malatesta, cui tenne pure il passator cortese, re della strada, re della foresta. Secondo, anniversario. Sono più di 30 anni e di queste ore, mamma, tu con dolor m'hai partorito, ed il mio nuovo piccolo vagito t'addolorava più del tuo dolore. Poi tra il dolore sempre ed il timore, o dolce madre, m'hai di te nutrito. E quando fui del corpo tuo vestito, quand'ebbi nel mio cuor tutto il tuo cuore, allor sei morta, e son 20 anni, un giorno. E già gli occhi materni io penso a vuoto, e il caro viso già mi si scolora. Mamma, e più non ti so, ma nel soggiorno freddo de morti, nel tuo sogno immoto, tu m'accarezzi i riccioli d'allora. 31 di dicembre 1889. Terzo, Rio Salto. Lo so, non era nella valle fonda suon che s'udia di palafreni andanti, era l'acqua che giù dalle stillanti tegole a furia percotea la gronda. Pur via e via per l'infinita sponda passar vedevo i cavalieri erranti, scorgevo le corazze luccicanti, scorgevo l'ombra galoppar sull'onda. Cessato il vento poi, non di galoppi il suono udivo, né vedea tremando fughe remote al dubitoso lume, ma voi solo vedevo, amici pioppi, brusivano soave tentennando lungo la sponda del mio dolce fiume. Quarto, il maniero. Te sovente, o tra boschi arduo maniero, popolai di baroni e di vassalli, mentre i falchetti udia squittir su gialli merli e radendo il baluardo nero. Pei vetri un lume trascorrea leggero e nitrivano fervidi i cavalli. A uno squillo che uscia giù dalle valli apria le imposte il maggiordomo austero e nel fosso stridea la fragorosa saracinesca. Or tu, canto divino, sceso con l'ombre nel mio cuor cadenti, dove sei? Di tramonti, ora pensosa, là su un torvo giogo d'Appennino, qualche ilce nera lo ripete ai venti. Quinto, il bosco. O vecchio bosco pieno d'albatrelli, che sai di funghi e spiri la malia, cui tutto io già scampanellare udia di cicale invisibili ed uccelli. In te vivono i fauni ridarelli, canno le sussurranti aure in balia. Vive la ninfa e i passi lenti spia, bionda tra le interrotte ombre i capelli. Di ninfe albeggia in mezzo alla ramaglia, or sì or no, che se il desio le vinca, l'occhio alcuna ne attinge e il sol le bacia. Dileguano, eppur viva è la boscaglia, viva sempre nei fior della pervinca e nelle grandi ciocche della cacia. Sesto, il fonte. Mentre con lieve strepito perenne geme tra il caprifoglio una fontana, trema un trotto tranquillo e s'allontana per le fatate rilucenti ardenne. Qui pontò i piedi e s'alzò sulle penne quell'ippogrifo, qui stallò l'alfana, briglia d'oro dall'India sericana in questo trebbio il lungo error sostenne. Che qui l'abbeverava il paladino e meditava il mormorio del fonte senza piegar la ferrea persona. Poi seguì la sua corsa e il suo destino, così che intorno per la valle e il monte ancor la notte il trotto ne rintrona. Settimo, anniversario. Sappi, e forse lo sai, nel camposanto la bimba dalle lunghe anella d'oro e l'altra che fu l'ultimo tuo pianto, sappi ch'io le raccolsi e che le adoro. Per lor ripresi il mio coraggio affranto e mi detersi l'anima per loro. Hanno un tetto, hanno un nido, ora mio vanto e l'amor mio le nutre e il mio lavoro. Non son felici, sappi, ma serene. Il lor sorriso ha una tristezza pia. Io le guardo, o mia sola erma famiglia, e sempre agli occhi sento che mi viene quella che ti bagnò nell'agonia, non terminata lagrima alle ciglia. 31 di dicembre 1890. Ottavo, i puffini dell'Adriatico. Tra cielo e mare, un rigo di carmino recide intorno l'acque marezzate, parlano. È un'alba cerula d'estate, non una randa in tutto quel Turchino. Pur voci reca il soffio del garbino con oziose e tremule risate. Sono i puffini, sulle mute ondate pende quel chiacchiericcio mattutino. Sembra un vociare per la calma fioco di marinai ch'ad ora ad ora giunga tra il fievole sciacquio della risacca, quando, stagliate dentro l'oro e il fuoco, le paranzelle in una riga lunga dondolano sul mar liscio di lacca. Nono, cavallino. O bel clivo fiorito cavallino, ch'io varcai con le giadri eguali a schiera al mio bel tempo. Chi sa dir se l'era dolmo la tua parlante ombra o di pino? Era busso ricciuto o bianco spino da cui dorata trasparia la sera? C'è un campanile tra una selva nera che canta bianco l'inno mattutino? Non so che quando a te s'appressa il vano desio per entro il cielo fuggitivo, te vedo incerta vision fluire. So cor sembri il paese allor lontano, lontano che dal tuo fiorito clivo io rimirai nel limpido avvenire. Decimo, le monache di Sogliano. Dal profondo geme l'organo tra il fumar de cerei lento. C'è un brusio cupo di femmine nella chiesa del convento. un vegliardo austero mormora dall'altar suoi brevi appelli, dietro questi s'acciabattano delle donne i ritornelli. Ma di mezzo a un lungo gemito, da invisibile cortina, s'alza a vol secura ed agile una voce di bambina, ed intorno a questa ronzano tutti a volo, unite e strette, e la seguono e rincorrono voci d'altre giovinette. Per noi prega, o Santa Vergine, per noi prega, o Madre Pia, per noi prega, esse ripetono, o Maria, Maria, Maria. Quali note, par che tinnino nell'infrangersi del cuore, paion umide di lagrime, paion ebbre di dolore. Oh, qual colpa macchiò l'anima di codeste prigioniere, qual dolor poté percorrervi la fiorita del piacere. Queste bimbe, queste vergini, in che offesero Dio santo? Che perdono ne sospirano con sì lungo inno di pianto? Manda l'organo i suoi gemiti tra il fumar dei cerei lento, di lontane plaghe sembrano cupe e fredde onde di vento, dalle plaghe inaccessibili cupo e freddo il vento romba, già sottentra ai lunghi gemiti il silenzio della tomba. Undicesimo, il santuario. Come un'arca da Romi oltremarini, il santuario, a mezzo la scogliera, esala ancora l'inno e la preghiera tra i lunghi intercolumni dei pini. E trema ancor de palpiti divini che l'hanno scosso nella dolce sera, quando dalla grand'abside severa uscia l'incenso in fiocchi cilestrini. S'incurva in una luminosa arcata il ciel sovresso. Alle colline estreme il carro è fermo e spia l'ombra che sale. Sale con l'ombra il suon d'una cascata che grave nel silenzio sacro geme con un sospiro eternamente uguale. Dodicesimo anniversario. Già li vedevo gli occhi tuoi soavi seguirmi sempre per il mio cammino, chinarsi mesti sul mio capo chino, volgersi al mio dubbiar, dubbiosi e gravi. Come col dolor tuo mi consolavi, come, o cuore vivente oltre il destino, come al tuo collo ti tornai bambino, piangendo il pianto che su me versavi. Or che rivivo al fine, or che trovai, ah, le due parti del tuo cuore infranto, ora quell'occhio più che mai materno, no, tu con gli altri al freddo, all'acqua stai, con gli altri solitari in camposanto, in questa sera torbida d'inverno. 31 di dicembre 1891. Fine del capitolo 3.